Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa nuova puntata legata al Pioniere, questa rivista fumetti ma non solo, che seppur sotto mentite spoglie dal 47 al 74 è stata letta dai giovani della sinistra, in particolare quelli legati al Partito Comunista Italiano, esperienza importante che ha avuto, l'abbiamo visto diverse volte, personaggi come Gianni Rodari della direzione, Lada Gubetti nel contributo pedagogico e altri, che però è finito. A questo punto la domanda è: come mai questa chiusura della rivista? Lo ha chiesto la nostra Morina Moretti del CRAP a Yuri Meda, storico dell'Università di Macerata, nonché curatore dell'importante libro Falce Fumetto, storia della stampa periodica socialista e comunista per l'infanzia in Italia dal 93 al 65, un libro scritto a più mani ma appunto curato da Yuri Meda, che si confronta con Morena sul problema del perché il Pioniere ha chiuso i battenti. Il Pioniere comunque a un certo punto chiude, perché è accaduto? Il rapporto del Partito Comunista con il fumetto non è mai stato buono, questo lo possiamo dire fin dagli inizi. C'è all'interno del libro un bel saggio di Sara Mori che evidenzia proprio come l'uscita di Noi Ragazzi, che è il primo periodico comunista per l'infanzia che esce nel dopoguerra, non fu recepito bene, non fu visto bene dal Partito Comunista. Fu in realtà in effetti un'iniziativa privata di alcune persone che avevano, diciamo così, una loro idea politica, che però pensavano di così poter rivolgere anche all'infanzia una propaganda di carattere politico, ma soprattutto un approccio educativo alternativo a quello borghese attraverso questo tipo di strumento. Il periodico Noi Ragazzi però immediatamente, nel giro di poco tempo, verrà chiuso, e nei saluti finali che la redazione rivolge ai propri lettori dice: guardate, purtroppo siamo costretti a chiudere perché nascerà un altro periodico per l'infanzia che verrà stampato appunto dal Partito Comunista, e quel periodico per l'infanzia è il Pioniere. Quindi in realtà c'era già stato un disguido all'interno dell'universo comunista sulla fondazione, la nascita, la distribuzione e l'utilizzo in qualche modo a fini propagandistici di questo tipo di strumento. La nascita del Pioniere tuttavia non è una nascita lineare, nel senso che è vero che in qualche modo il Pioniere è emanazione diretta del partito e nasce per sostituire questa iniziativa privata, ma crea comunque molte tensioni, nonostante venga affidato a due persone, diremo così oggi, di provata fede, no? Dina Rinaldi, ma poi anche Gianni Rodari, che avevano una chiara impronta ideologica e che erano degli uomini di partito, però ciò non toglie che comunque ai vertici massimi, e questo è risaputo insomma, soprattutto Togliatti, ma poi attraverso Togliatti anche Nilde Iotti, avevano espresso numerose volte la loro contrarietà rispetto all'utilizzo di quello che veniva interpretato ancora all'epoca come un strumento di comunicazione prettamente americano, o comunque molto americaneggiante, insomma eccessivamente americaneggiante, e questo strumento in qualche modo era il fumetto. Uno strumento che di fatto sovrastava secondo loro il contenuto. Diciamo era era uno strumento, era un modo di comunicare il contenuto che secondo loro eccedeva eccessivamente rispetto alla pregnanza dei valori che poteva trasmettere, e andava in qualche modo a produrre tutta una serie di effetti devastanti, a loro modo di vedere, nei confronti dell'infanzia, primo tra i quali quello dell'analfabetismo di ritorno, cioè il famoso mito. Guardate, è un mito che è durato fino a poco tempo fa, insomma forse in realtà in alcune famiglie ancora si dicono queste cose qui, cioè che il fumetto in qualche modo, non leggere il fumetto perché altrimenti disimpari a leggere, no? Si riteneva che questa compenetrazione così forte tra immagini e testo avesse in realtà degli effetti devastanti sulle capacità di apprendimento, di alfabetizzazione primaria

ma invece centriamo l'attenzione su uno dei più conosciuti graphic novelist, Lelio Buonaccorso, che ha pubblicato questo Che viva El Che Guevara in collaborazione con Marco Rizzo. Ecco, sentiamo qualche passaggio, l'intervista proprio con Lelio Buonaccorso, il rapporto tra la memoria e le graphic novel. È indubbiamente la storia. Sono indubbiamente le storie quelle che fanno da collante tra fumetto e memoria. E in questa cosa abbiamo appunto raccontato insieme a Marco la storia di Karski, dunque una storia sull'olocausto, e la storia di Peppino Impastato, e dunque parliamo di mafia. Sono due storie che comunque hanno in comune la memoria. Tu lavori tanto con i ragazzi. Qual è la risposta che hanno i ragazzi quando vedono, ascoltano e leggono queste storie di memoria? È sicuramente una sorpresa, sono sicuramente incuriositi da queste vicende. Si pensa che il fumetto sia un discorso semplicemente di intrattenimento o di gioco, non si pensa che magari possa raccontare anche delle vicende realmente accadute. Infatti. Quanto di te c'è nella tua matita e nei tuoi personaggi? C'è sicuramente una buona parte di chi fa quello che, insomma, che fa. Io non riesco a disegnare cose che non riesco a sentire. E c'è un momento di poca confidenza, come con la gente. Ci prendi confidenza e più ci prendi confidenza, più li disegni, più li conosci e meglio ti vengono a disegnare. Perché se io riesco a sentire un'emozione, i miei lettori poi l'ascoltano quando disegno. Arriva. Arrivò la notizia, ci prese come un pugno, ci gelò di sconforto. Sapere a brutto grugno che Guevara era morto. In quel giorno d'ottobre, in terra boliviana, era tradito e perso Ernesto Che Guevara. Ma come già faceva il pioniere, anche il racconto della storia oggi non è solo a fumetti, è anche un racconto romanzi veri e propri di letteratura che si rivolgono ai ragazzi, come per esempio questo testo L'estate che conobbi il Che di Luigi Garlando, che vince lo Strega per ragazzi, un testo che appunto dà una dimensione molto umana ed efficace del personaggio anche nella sua formazione culturale. Ma per sapere di che libro stiamo parlando, ricorriamo all'associazione Yucali, che collabora, come voi ben sapete, con la nostra emittente, con la trasmissione Il Polverone Magico, proprio dedicato alle letture per i ragazzi. Chiediamo alla Simona Sagone di che libro stiamo parlando. Sto parlando del libro vincitore del premio Strega Ragazze e Ragazzi categoria più 11 anni, L'estate che conobbi il Che di Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, scrittore sia per ragazzi che per adulti. Il libro è uscito con Rizzoli, è stato applauditissimo all'annuncio dello Strega e dopo la lettura diciamo che gli applausi erano e sono meritatissimi. Il libro tiene col fiato sospeso fino all'ultima pagina, sia nel racconto della vita del comandante Che Guevara, sia nelle vicende familiari del protagonista, del nonno Riccardo in ospedale, malato di cuore, che racconta al nipote perché ha tatuato addosso il volto del Che. E soprattutto si rimane esterrefatti per il modo in cui il papà del piccolo Cesare riesce a fare la sua personale rivoluzione per salvare lo stabilimento della Camerata in Brianza, coniugando capacità di innovazione, alto artigianato e giustizia sociale. Vi abbiamo già detto un sacco di cose sulla trama. Affrontiamo dunque la lettura di un brano del libro, Inforcando la bici del piccolo Cesare, ribattezzata La Poderosa, come la moto del Che. Buon ascolto. Trovai nonno Riccardo in corridoio che camminava piano piano spingendo una specie di attaccapanni a rotelle. Non aveva più fili nel naso, solo uno nel braccio che scendeva da una busta trasparente appesa all'attaccapanni. Mi sembrava anche più colorito, una bella faccia insomma, a parte il naso che era sempre il solito, schiacciato come un chiodo ripiegato a martellate, tanto che gli occhiali facevano fatica a stargli su. Io lo guardai, quel naso, con orgoglio. Era la prova che mio nonno da giovane era stato un pugile, più inconfutabile della foto in bianco e nero e delle medaglie che teneva in casa. Passò un uomo alto dalla pelle scura e la barba grigia che indossava una lunga tunica bianca. Salutò il nonno con un inchino appena accennato. Il nonno gli rispose: Azul. Si chiama Azul. No, no, no. Azul è il saluto dei Tuareg. Lui si chiama Amgar, che significa capo. Amgar discende da una nobile famiglia di Tuareg, che un tempo viveva nel deserto del Sahara e lo attraversava in groppa ai cammelli. Guarda con che eleganza cammina il capo. Tenesse in testa una brocca d'acqua, non verserebbe una goccia. Chiacchierammo un po' del mondiale e delle cose di casa, poi riannodai il filo con il piccolo furibondo senza fiato. Ernesto impara a giocare a scacchi e soprattutto ad amare i libri. Legge, legge, legge. Legge tantissimo. Che cosa? Di tutto, romanzi, libri di avventura, di storie, di viaggi. E più legge del mondo, più gli cresce la voglia di scoprirlo. Più deve starsene in casa con il fiato corto, più scalpita per correre fuori a vedere le cose che scopre nei libri. È logico, no? Pensaci, se hai un tesoro puoi anche sperperare dei soldi, ma se hai solo 5 euro in tasca cerchi di spenderli nel modo migliore. E Ernesto ha 5 euro di fiato e non vuole sprecarlo. Infatti verso i 20 anni si mette in viaggio con il suo amico Alberto, che studia medicina come lui, per scoprire l'Argentina e il Sud America. Questo non me l'aspettavo. Il cieco era un medico come la mamma. Sì, anche perché ha una nonna ammalata di asma a cui vuole bene quasi quanto tu ne vuoi a me. Quasi, ho detto. Quando la nonna Ana muore, il CE decide di vendicarla, cioè di studiare e di combattere l'asma e le allergie con tutte le sue forze. E il furibondo è fatto così: attacca sempre, monta su una motocicletta con il suo amico Alberto e partono alla scoperta del mondo. Battezzano la moto con un nome eroico, la Poderosa. E la Poderosa è eroica per davvero, divora chilometri su strade impossibili. Un giorno va a sbattere contro una mandria di vacche perché i due amici hanno bevuto un po' troppo. Un'altra volta deve ripartire a razzo per mettere in salvo Ernesto, che in una delle feste di paese ha fatto qualche complimento di troppo a una bella ragazza già fidanzata. Se la spassano, insomma. Me lo farei volentieri un viaggio del genere col mio amico Leo. Sicuro? Sappi allora che per fare un viaggio del genere devi passare qualche giorno in un villaggio di lebrosi. Cosa c'entrano i lebrosi? C'entrano. C'entrano perché Ernesto e Alberto, appena arrivano in Perù, vanno a visitare subito il lebrosario di Huambo, che è un vero inferno di sofferenza. Il medico passa una volta al mese, se passa. Quei poveracci sopravvivono in condizioni disumane, isolati, lontani dalla gente che li emargina per paura del contagio. I lebrosi sono gli ultimi degli ultimi. Il CE, giovane dottore, passa alcuni giorni a curarli e medicarli. Nonostante soffra anche lui, gli viene un attacco d'asma terribile in quei giorni. Alberto deve curare l'amico con alcune iniezioni di adrenalina, ma teme che la cosa possa finire male. Invece il furibondo si riprende. E cosa fa per rispondere alla malattia? Attacca! Esatto! Per raggiungere il lebrosario il CE deve attraversare ogni volta il Rido e le Mazzoni in barca. Stavolta decide di farlo a nuoto. Sono 4 chilometri di bracciata in diagonale. Alberto prova a fermarlo. Teme che possa restarci lì, in mezzo al fiume, per un nuovo attacco d'asma. Ma quando il furibondo decide di attaccare, è inarrestabile. Si tuffa e nuota contro la corrente. Alberto lo segue da riva con il cuore in gola. Il CE arriva dall'altra sponda, boccheggiando come un pesce, stremato, con le braccia a pezzi, ma strafelice. Ha vinto lui! Il CE arriva ai lebrosi. Così informai sua Giuseppina, che proprio in quel momento transitava con il carrello dei farmaci. Certo, ridava la vista ai ciechi, le gambe e gli storpi. Rispose senza neppure fermarsi, allontanandosi come un'enorme nuvola bianca del Risegone. I lebrosi in qualche modo ricambiano la generosità dei due ragazzi argentini, costruiscono e regalano loro una zattera di legno con una piccola capanna di rami al centro, che Alberto ed Ernesto battezzano Mambo Tango. Sul Mambo Tango discendono per 3 giorni il lungo il Rio delle Amazzoni, poi si addormentano, vanno alla deriva sul fiume e si ritrovano in Brasile. E in canoa raggiungono la cittadina di Leticia, in Colombia, dove si procurano un lavoro curioso per guadagnare dei soldi. Allenatori di calcio. Fa veramente di tutto il CE durante quegli anni da zingaro. Scaricatore di barili, fotografo di bambini, venditore di statuette di Gesù, infermiere su una petroliera, venditore di scarpe. Mangia poco e si lava ancora meno. Ha una camicia di nylon che chiama Semanera perché la tiene addosso una settimana intera. Ripete spesso: con chi si cambia troppo spesso i vestiti non scambierei mai un'opinione. Ernesto non è in vacanza, è partito sulla poderosa a caccia di risposte. Vuole capire cosa fare della sua vita, che è la domanda più difficile che prima o poi capita tra i piedi a tutti. Sta per laurearsi in medicina, ha quasi finito di studiare. Presto dovrà scegliere la sua strada. Quale? Diventare un medico? Combattere l'asma e le allergie come ha promesso a nonna? È davvero questa la strada della sua vita? Ernesto vuole esserne sicuro. E le ha trovate le risposte che cercava? Sì, le ha trovate. Se il CE non fosse partito in sella alla poderosa, oggi non avrei sul braccio questo tatuaggio. Tutto ciò che ha fatto dopo è nato dalle cose che ha visto durante i viaggi in Sud America. E le brugi? Non solo. Il CE vede anche i minatori di Antofagasta, in Cile, che lavorano sottoterra in condizioni bestiali. Guadagnano stipendi da fame, si ammalano, muoiono, mentre i proprietari inglesi delle miniere diventano ricchi. Vedi ranchos, le sterminate baraccopoli di Caracas in Venezuela, dove i poveri vivono come topi tra i rifiuti. Vede le violenze della polizia in Colombia, dove la dittatura ruba la libertà alle persone. Ricordi cosa diceva il CE sulle guance? Sì, che ogni uomo deve sentire sulla propria guancia il dolore degli schiaffi che prende un altro uomo. Ernesto sente tutti gli schiaffi, quelli presi dai lebrosi, quelli dei minatori, quelli dei poveri, quelli dei perseguitati, quelli dei malati. Perciò, alla fine dei suoi viaggi, si ritrova davanti a un bivio. Che fare ora? Guarire solo le malattie o anche le ingiustizie? Cioè, terminare l'università, laurearsi, mettersi un camice bianco e fare il medico, oppure impegnarsi, lottare per cambiare tante situazioni sbagliate e farle diventare più giuste. Ribaltare le situazioni significa fare la rivoluzione, vero? Esatto. Andiamo ad ascoltare allora dallo stesso Luigi Garlando, autore di questo L'estate che conobbi il CE, come ha lavorato sulla figura di un mito a volte fin troppo frequentato. L'importanza della cornice è quello di attualizzare un po' la lezione di Che Guevara, no? Che poi è stata l'idea iniziale del libro, cioè mi è venuta proprio l'idea, io cercavo un po' un personaggio da raccontare ai ragazzi che avesse una storia, una lezione importante da trasmettere. E rileggendo la lettera del CE ai figli, no, quando raccomandava soprattutto la prima virtù di un rivoluzionario è quella di sentire l'ingiustizia patita da qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo. Ecco, questo era il messaggio primo del libro, cioè sentire il dolore degli altri. E allora è nata anche questa cornice per far capire che il dolore degli altri non è necessariamente solo l'emigrato che sbarca dal barcone, quindi il dramma grande, ma anche il compagno di banco, il papà del compagno di banca che perde un lavoro. E allora non pensare solo io il lavoro ce l'ho, mio padre il lavoro ce l'ha, ma fare proprio come diceva il CE, sentire gli schiaffi che prendono gli altri. Ecco, allora questa brianza, un po' questa funzione di far sentire vicina la lezione del CE. Andavo cercando proprio un personaggio da raccontare, come dicevo prima, a 10 anni da Giovanni Falcone, quindi volevo fare un po' un'operazione simile, cioè presentare i ragazzi. E ho deciso proprio di scegliere il CE, anche se apparentemente è il contrario, no? Falcone era lo Stato, il CE è un rivoluzionario, è l'antistato, è uno che ribalta uno Stato. Però poi c'è una tensione comune, che è la tensione sociale, la tensione per la giustizia sociale. Ecco, e del CE io, come dire, ho presentato ai ragazzi questo succo, no? Buttando via la buccia e dando una lezione che secondo me è importantissima, quello che dicevo prima di sentire il dolore, ma anche il valore della cultura, dell'istruzione, far vedere come il CE, un lume di candela, magari insegnava a scrivere, a leggere ai piccoli soldati che erano con lui. E quindi ecco, io ho estratto un po' questo pensiero che secondo me era importante, quello sul razzismo, no? Cioè quando dice finché il colore della pelle continuerà a essere più importante del colore degli occhi, noi dobbiamo combattere. Ecco, ho voluto proprio estrarre questo succo dal pensiero del CE e non farne una propaganda, cioè il giudizio io lo sospendo, anche il protagonista alla fine un pochino si distacca quando finisce il libro, non raccoglie tutta la lezione del nonno, fa proprio solo quella parte che gli ha aiutato in qualche modo a crescere, a formarsi, a educarsi, e io un po' ho fatto l'operazione simile. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, forse non tornerà. Ma voi reazionari tremate, non sono finite le rivoluzioni, e voi a decine che usate parole diverse, le stesse prigioni. Da qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il Che ritornerà. Da qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il Che ritornerà. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare?